Ciao a tutte e tutti e benvenuti alla nuova puntata di Uru. Come ogni venerdì sera alle 21.30, una nuova puntata. E visto che siamo già alla 51esima, vi ricordo che potete scaricare tutte le altre puntate su wombat.noblogs.org in menu podcast. E se siete amanti della musica, guardatelo bene i podcast, perché comincia a essercene tanta e di tutti i tipi, quindi potete trovare senz'altro qualcosa che piace a voi. Ritornando a stasera, ritornando all'Africa, invece stasera una puntata con dei suoni particolari. Sì, non sono suoni di un tipo di musica particolare e non sono neppure di una regione o di uno stato, di una nazione particolare, ma è musica dal vivo. Sono pezzi eseguiti dal vivo da musicisti o cantanti africani in Africa. E se è difficile incidere in Africa i propri lavori, i propri pezzi, ancora più difficile incidere lavori CD, LP derivanti da esecuzioni eseguite in concerto, perché se già c'è difficoltà avere studi di registrazione, figuriamoci l'ulteriore difficoltà avere la tecnologia, mezzi tecnici e conseguentemente mezzi economici per registrare un concerto dal vivo e poi successivamente trasferirlo su vinile o su CD. Quindi per la maggior parte, anche per la stragrandissima parte dei pezzi che proponiamo stasera, sono ripresi non da dischi o da CD, ma bensì da registrazioni dal vivo amatoriali. E il primo pezzo che vi facciamo sentire eseguito da Mingas. Mingas era la voce solista dell'orchestra Maraventa Star di Mozambico, un'orchestra storica e una delle orchestre più rivoluzionarie del Mozambico e dell'Africa intera, rivoluzionaria nel senso non soltanto per il suono che proponevo, ma anche perché ha accompagnato tutta la traiettoria del Frelimo, del Frente di Liberazione del Mozambico, da quando combatteva contro la colonizzazione a successivamente, quando avvenuta la decolonizzazione, è iniziato questo processo di rinnovamento della cultura e quindi conseguentemente anche della musica mozambicana. In questo concerto Mingas, la voce solista, è sostanzialmente da sola, accompagnata da un'orchestra fatta da elementi della televisione, della TV mozambicana. È un concerto particolare perché è un concerto che celebrava Samora Machel, il leader indipendentista in Mozambico. Il concerto si è tenuto a Maputo nel 2003. Il pezzo che facciamo ascoltare è Avasati Valomu. Dream.

Le autorità vogliono effettuare il processo utilizzando un buco nero spazio-temporale per limitare ogni azione di solidarietà. Per questo motivo è essenziale rendere pubblico un altro esempio di utilizzo arbitrario del potere diretto verso uno dei gruppi sociali più oppressi. Chiediamo ai singoli, gruppi e organizzazioni di solidarietà di organizzare iniziative contro informazione. L'account Twitter a Free de Memoria de Moria, scusate, a Free de Moria 35, l'hashtag Free de Moria 35 è stato creato per lo scopo della campagna solidarietà, mentre i mezzi, i media auto-organizzati saranno utilizzati per informazioni e aggiornamenti precisi. Firmato l'Assemblea di Solidarietà per 35 migranti perseguitati di Moria. E ritorniamo alla nostra musica e torniamo in Mali, giusto appunto uno dei paesi a cui appartengono alcuni di questi 35, migranti. Torniamo a Lifar Kafuré. In questo pezzo insieme ad Afel Bokoum, e questo pezzo è stato registrato al Festival Au Désert nel gennaio del 2003. Il Festival Au Désert era una manifestazione culturale che dal 2001 si svolgeva ogni anno a gennaio nel paese africano del Mali, precisamente a Essakane, vicino alla città di Timbuktu. È nato nel 2001 appunto per ricordare i raduni annuali del popolo Tuareg a Timbuktu, durante i quali, alla fine della stagione nomade, i nomadi erano soliti incontrarsi per scambiarsi notizie e beni, cantare e danzare. Il festival celebra quindi la cultura locale con danze, poesie, musica e tradizioni Tuareg, comprese le corse dei cammelli e altri giochi tipici. Adesso da circa 2 anni è fermo il festival per la presenza dei gruppi di jihad nel Mali del Nord, specie sopra Timbuktu, speriamo che ricominci. E adesso quindi Ali Farka Touré con Afel Bokoum, ascoltiamo Goye Kour. Ça va là? Ça va? Est-ce que ça va bien? C'est un festival qui a été organisé et pour faire plaisir aussi à d'autres qui n'ont jamais connu le mot festival. Et ils sont contents. I'm gonna make you mine. Registrazione non impeccabile, una registrazione amatoriale, ma che comunque riesce a restituire il clima che si respira a questo festival, con alle farcature che all'inizio, prima di iniziare la sua esecuzione, con Afel Bokoum in due righe spiega, dice che per loro questo festival non è appunto un festival, è un momento di ritrovo che va avanti da decenni, da anni, e che allo scopo di divertirsi sostanzialmente. E invece il prossimo pezzo è un pezzo eseguito da Cheb Khaled insieme a Cheb Mami e Abdel Kadir. Il brano è Aisha, uno dei brani più conosciuti di Cheb Khaled, e in questo caso è eseguito al concert della Tolerance a Agadir in Marocco nel 2007. Questo è un concerto, una sorta di zona franca da un punto di vista sociale, nel senso che è fuori, diciamo, dalle restrizioni di quella è la società marocchina in genere. E concerto tenutosi davanti a 300.000 persone sulla spiaggia di Agadir, su questa immensa spiaggia sull'oceano. Quindi Cheb Khaled insieme a Abdel Kadir e Cheb Mami, il pezzo è Aisha. Alors là, attention, maintenant nous allons accueillir un artiste qui a révélé le rail chez nous en France, et un peu partout d'ailleurs. Voici tout de suite Khaled. Oh, chaîne. Rien n'est trop beau pour une si belle. Oh, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Elle a dit garde tes trésors. Moi je vaux mieux que tout ça. Et bah vous sortez, bah vous mets mon or. Je veux les mêmes droits que toi. Et du respect pour chaque jour. Moi je ne veux que de l'or. Escúchame, a William Compie 70 anni la rivista Présence Africaine e insieme con l'omonima editrice e libreria è stata una storica fucina dell'umanesimo nero. Ai 25 bis Rue des Écoles, nel prestigioso quinto arrondissement a due passi dalla Sorbona, epicentro del celebre quartiere latino di Parigi, ed è infatti a questo indirizzo che dal 1962 affaccia la sua vetrina alla libreria Présence Africaine. testimonianza di un'esperienza letteraria eccezionale che esordì in riva alla Senna nel 1947. All'indomani della Seconda Guerra Mondiale, Parigi brulica di cittadini dei popoli colonizzati che, come i fucilieri senegalesi, hanno contribuito alla liberazione della Francia dal giogo tedesco. Venuti dall'oltremare, articolano le loro riflessioni sull'emancipazione dei rispettivi paesi d'origine, sognano di panafricanismo e discutono sul concetto di negritudine lanciato dal trio di poeti Césaire, Senghor, Damas. In mezzo a quella agitazione, un insegnante di lettere di 37 anni, di origine senegalese, decide di passare dal dibattito all'azione concreta. Già dal 1942 l'intellettuale senegalese Alioune Diop pensava a uno strumento per pubblicare, secondo le sue stesse parole, studi africanistici sulla cultura e la civiltà africana, pubblicare testi africani e passare in rassegna opere d'arte o del pensiero riguardante il mondo nero. E nel novembre del 1947 esce il primo numero di Présence Africaine. Sulle pagine della nuova rivista, allora bimestrale, figurano le migliori penne francesi antirazziste e anticolonialiste dell'epoca, come André Gide, Georges Balandier, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, che si alternano alle firme di intellettuali neri e a volte anche indocinesi. Nel 1949 la rivista diviene anche casa editrice, offrendo così uno sbocco ai testi di molti autori, romanzieri, poeti, pensatori dell'Africa e dei Caraibi francesi, Senghor, appunto, Césaire, Mongo Betty, Bernard Dadier, Olympe Bellic-Enum, Sembène Ousmane, Édouard Glissant, Frantz Fanon, Jacques Ramé Banjara, Guy Tirolien e altri ancora. Nel 1954 pubblica la controversa tesi di Cheikh Anta Diop sul fatto che, passando per l'antico Egitto, l'Africa nera è la vera culla della civiltà. Présence Africaine si ribella all'alienazione dell'uomo nero. Per questo motivo Alioune Diop dà vita il 19-21 settembre 1956 alla Sorbona al primo congresso degli scrittori e artisti neri. Obiettivo: realizzare l'inventario delle culture nere e analizzare le responsabilità della cultura occidentale nella colonizzazione e nel razzismo. I partecipanti sono chiamati ad apportare il loro contributo di intellettuali alla lotta dei popoli colonizzati per la loro autodeterminazione. L'evento sarà replicato nel 1959 a Roma e l'anno seguente vedrà un gran numero di paesi africani ottenere l'indipendenza. Parigi cessa allora di essere il centro delle lotte identitarie degli africani francofoni. Non per questo Présence Africaine smetterà di irradiare a partire da Parigi. Contribuirà al successo del primo Festival Mondiale delle Arti Nere di Dakar nel 1966 e successivamente quello di Lagos nel 77. E ritorniamo ai nostri concerti dal vivo. Il prossimo è un concerto, un pezzo, eseguito da Miriam Makeba durante il tour, Graceland Tour. Tour prende il nome dall'LP omonimo inciso da Paul Simon. E il tour stesso è una storia un po' particolare, nel senso che Paul Simon appunto fu tra i primi, tra gli autori musicisti occidentali a immettere nelle proprie canzoni o addirittura a fare canzoni in toto con suoni e ritmi africani. E per fare questo, prima del tour andò in Sudafrica, sostanzialmente in una forma illegale, nascosto, ecco, e incontrando alcuni musicisti africani. Alcuni artisti Artists Unite Against Apartheid espressero delle perplessità rispetto al fatto che Paul Samuels fosse recato in Sudafrica proprio nel momento in cui c'era questo boicottaggio sia politico che culturale verso il paese dell'apartheid. Gli artisti neri che sudafricani invece sostennero e parteciparono a questo incontro con Paul Simon, sostenendo appunto che invece tutto ciò avrebbe contribuito a far conoscere ancora di più la cultura dei neri sudafricani e conseguentemente avere maggior spinta nella lotta contro l'apartheid. Il fatto sta che per evitare a scanso di equivoci, per evitare ogni polemica, Paul Simon organizzò questo Graceland Tour in tutta l'Africa e suonò, non andò chiaramente in Sudafrica, ma questo l'aveva già deciso fin dall'inizio. Sudafrica era stata solo una forma clandestina sostanzialmente, e organizzò insieme ad altri questo concerto gratuito ad Harare in Zimbabwe nel 1987, a cui invitò a partecipare tutti e tutte i cantanti e le cantanti sudafricane in esilio. Concerto tenuto tra l'altro al Rufaro Stadium di Harare, uno stadio che tra l'altro è stato luogo di uno teatro di uno dei più importanti, se non un concerto seminale per l'Africa, diciamo, da un punto di vista di conoscenza nel mondo. E appunto a questo concerto parteciparono alcuni dei più importanti artisti sudafricani esiliati, fra cui Miriam Makeba, Hugh Masekela, Ladis Brigham Mbazo e alcuni tra i più famosi e più conosciuti e più impegnati artisti zimbabwani, fra cui Olivier Ntukudzi. In questo pezzo ci ascoltavano Miriam Makeba, esegue Jinkel e Maweni al Rufaro Stadium di Harare in Zimbabwe 1987, l'introduzione appunto di Paul Simon. Miriam Makeba. Was born in Johannesburg. She was the first of the great singers from her country to bring South African music to the world. In 1959, she began a world tour, and when she attempted to return home, 1 year later, she was refused readmittance. She's been a political exile now for 27 years. They call her Mama Africa, the queen of South African music, Miriam Makeba. Ojikele mawe ni tiyamba, To be back home, I can't tell you. E la storia di presenza africana chiaramente non si ferma al primo Festival Mondiale delle Arti Nere di Dakar del 66, neppure a quello di Lagos nel 77, festival che aveva contribuito attivamente a organizzare. E Alain Diop muore nel 1980, il mondo chiaramente è cambiato e quindi anche il mondo dell'editoria, ma è cambiato anche il tipo di emigrazione. Se un tempo era costituita l'emigrazione da studenti che popolavano il quartiere latino, si è poi trasformata in quella di lavoratori immigrati e chiaramente più preoccupati della sopravvivenza quotidiana. Presenza africana continua a essere una sorta di riferimento anche per questi lavoratori e tiene a battesimo importanti scrittori della diaspora africana. I primi romanzi di Calixte Beyaya, Alema Bankou o Fatou Diome sono stati editi da Presenza Africana, ma è soprattutto la libreria che oggi, tuttora, nel 2018 continua a tenere viva l'eredità, costituire il punto di convergenza della letteratura africana fuori dall'Africa. È un po' un luogo di pellegrinaggio e vede passare personaggi che segnano la storia politica e letteraria del mondo nero francofono, chiaramente, come sostiene Suzanne Diop, la figlia di Alun, il fondatore. Il pericolo per Presenza Africana nell'era di internet e social network è di somigliare a un museo, mentre invece ci dobbiamo dedicare a animare nuovi dibattiti tra gli africani. E quindi ai 25 bis di Rue de l'École si nutre ancora il sogno di trasmettere questa bella eredità alle generazioni future. Ci sentiamo un altro pezzo dal vivo, in questo caso è l'unico pezzo registrato, in questo caso nell'LP, Fela Kuti, pezzo Let's Start, è tratto dall'LP appunto Live, Fela Kuti con Ginger Beck, tra l'altro in questo pezzo non c'è, Tony Allen, più tutti gli altri musicisti di Africa 70, era la band che accompagnava Fela Kuti in quel periodo. Un pezzo appunto di titolo The Start, eseguito a Lagos, in Nigeria, nel 1970. We're gonna start a live recording right now. We're gonna play for you our first tune tonight. It's gonna be about four tunes. And the first tune is called Olohun Ta Wa Se Yara Je Ka Bere. Now, which means, let's start what we have come into the room to do. Right on. Here goes. One, two, three. Oh, Together again. And we're gonna play for you a tune that I call Ipnotico, come sempre, Fela Kuti. Allora, state ascoltando Uru. Potete ascoltarlo sia sul sito wombat.noblogs.org e andare su streaming, oppure potete ascoltarlo all'1359 in AM, le onde medie. Mi raccomando, provate 1359 in AM. Vi ricordo anche che Radio Wombat ha un profilo Twitter, Radio Wombat FI, e la mail per comunicare con noi, postawombat@insiberia.net. Se vi piace la musica africana e vi interessa seguire Uru, anche noi abbiamo un profilo Twitter personalizzato, Uru-RW di Radio Wombat. Vi ricordo anche che le repliche, quindi se avete perso una parte della trasmissione, potete riascoltarla la domenica alle 23 o il lunedì mattina alle 8:30, sempre su 1359 AM o wombat.noblogs.org in streaming. Eh sì, e prima quando abbiamo introdotto il pezzo eseguito da Miriam Makeba, abbiamo sottolineato il fatto che il concerto si teneva al Rufaro Stadium di Harare in Zimbabwe e che appunto era stato teatro di un altro grandissimo concerto, e anzi si può dire fino a quel momento lì era il concerto per eccellenza eseguito in Africa, un concerto africano con protagonista non un africano ma uno che ha le radici africane, ci tiene. E appunto era il 18 aprile 1980 e lo Zimbabwe, fino allora colonia britannica al nome di Rhodesia, otteneva l'indipendenza. Lo stesso giorno che otteneva l'indipendenza, per le celebrazioni fu invitato Bob Marley con i suoi Wailers, che per l'occasione appunto si eseguirono in concerto al Rufarium Stadium di Salisbury, come appunto si chiamava, si è chiamata fino a quel giorno la capitale dello Zimbabwe, in questo caso della Rhodesia. Il giorno dopo cambiò un nome appunto in Harare, e Bob Marley si eseguì gratuitamente e rinunciò al cachet previsto, ma non solo, coprì tutte le spese, comprese l'impianto di amplificazione, per un totale di circa $250,000 all'epoca, e allo stadio si riversarono 100,000 persone, ma non tutti riuscirono a entrare. Lo stadio, per chi l'ha visto, no? Noi l'abbiamo visto, saranno 50-60,000 persone che c'entrano, diciamo, abbastanza bene. Uno stadio nella periferia di Harare, uno stadio sorto in una zona popolare, e quindi già di per sé era un posto popolare, già prima che venisse costruito lo stadio, ancora di più è avvenuto successivamente. E appunto allo stadio si riversarono 100,000 persone, ma non tutti riuscirono all'entrare. All'esterno scoppiò un po' di caos, con il pubblico cercava di entrare, che la polizia, come in tutti i paesi del mondo, nonostante fosse il primo giorno di indipendenza, caricò e lanciò lacrimogeni, che con il vento giunsero anche dentro lo stadio, stringendo la band a lasciare il palco a causa del gas lacrimogeni. Ristabilitasi un po' di calma, Bob Marley e i Wailers tornarono per concludere un concerto memorabile, che lo stesso cantante ha definito il momento più significativo della sua carriera. Ma non solo, colpito da questa situazione, il giorno successivo Bob Marley e i Wailers si esibirono in un secondo concerto per tutte le persone che non erano riuscite a entrare il giorno precedente, e questa volta erano 80,000 gli spettatori. Tenete presente che Harare in quel periodo, qui si sta parlando di un totale di 180,000 persone, Harare in quel periodo saranno stati 300,000 abitanti, più o meno. E quindi, ecco, questo è un po' il significato importante che assume per la musica per la musica africana il Rufaro Stadium di Harare. E torniamo alla musica e torniamo a Femi Kuti, figlio di Fela, che abbiamo ascoltato prima, con il brano I Wanna Be Free, anche questo registrato a Lagos, allo Shrine, creatura di Fela Kuti, che i figli Femi e Seun hanno riportato in vita dopo la morte del padre. Questo è stato registrato nel 2004, quindi Femi Kuti e Wanna Be Free. I wanna be free from all this yeah politics. I wanna be free from all this yeah politicians. I wanna be free from all these corrupt monsters. We want to chop man. every night I ask myself, why? Say because fella die, that's why them they try to confuse I and everybody mind. I wanna be free from all these yeah politics. I wanna be free from all these yeah politicians. I wanna be free from all these corrupt monsters. We want to chop them. The king is dead. Madam Kukuma killed the king for political reasons. Them no fit talk as he be. Oh yeah, back to politics. Them start to dribble and scheme for the same corruption and greed. No plan, no plan for you and me. From all these yeah politics, from all these yeah politicians, from all these corrupt monsters, we want to chop them. When we they sleep, they meet to plan their evil strategies to control our resources. African leaders and their foreign counterparts, they be like from these evil monsters. We shall never be free from all this politics, from all these politicians, from all these corrupt monsters. We want to chop them. I said every day, every night, I ask myself, why? Say because fella die, that's why them they try to confuse I and everybody mind. From all these politics, from all these politicians, from all these corrupt monsters, we want to chop them. Di lasciarvi con la nostra sigla, vi volevamo avvertire che la settimana prossima Uru non andrà in onda perché praticamente Radio Wombat si trasferisce sulle colline fiorentine per la diretta da Mondeggi Fattoria Senza Padroni e quindi saremo in diretta, ascolteremo in diretta i dibattiti, le interviste di chi parteciperà a questa dibattito, interviste, ma anche il corteo del sabato, comunque il fine settimana diretta da Mondeggi e da dove ci sarà il corteo organizzato da Mondeggi e Genuino Clandestino, proprio per un corteo di solidarietà all'esperienza di Mondeggi Fattoria Senza Padroni. E quindi vi lasciamo qui, ci risentiamo quindi tra 15 giorni. Ciao a tutte e tutti.